di quelle notti dove il giorno non si avvicina, dove i pensieri sono ingombranti e non arrivano alla mattina. E forse una di quelle notti dove vorresti un po' di fortuna e accarezzare tutti i tuoi sogni, illuminarti con raggio della luna. Un po' si soffre in questa realtà, e allora chiudi gli occhi e sogna il mondo che verrà, nel mondo che verrà. Saranno i tuoi occhi e la tua anima, nel mondo che verrà. Ci sarà sempre il blu, anche se pioverà, nel mondo che verrà. Che vorresti saper controllare, ma per avere un po' di certezze in questa notte da saper amare. Ma la stanchezza ti fa ricordare che sei solo un uomo e che sei materiale. Carne ed anima non sanno stare nello stesso corpo senza litigare. E nella notte da non